Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Mio padre mi accompagnò perfino in stazione e io mi sentivo raggiante perché stavo facendo una cosa a cui tenevo molto con lui al mio fianco. Mentre si aspettava vicino ai binari, appresi da Enzo che il famoso treno speciale in realtà consisteva nell'occupare fisicamente un treno qualsiasi che poi avremmo dirottato su Amsterdam. Ciao, sono Rita Di Gioia, ho 40 anni e vivo con mio figlio Sami di 11 a Luisago, un piccolo paesino in provincia di Como. Lavoro a Milano come sales assistant. Avevo 22 anni ed ero stato eletto da pochi mesi consigliere comunale. Andai a una manifestazione contro la chiusura di uno stabilimento ovicolo in Romagna. Per 2 giorni sono stato al fianco di più di 200 operai, facendo loro da mangiare e a manifestare contro i licenziamenti in massa. Federico. Ricordo la manifestazione a Firenze del 90, Movimento della Pantera, con assemblea finale all'ITIS di Rifredi, e quella per riprendersi il Leon Cavallo dell'89 a Milano. Marco. Ricordo con emozione la manifestazione del 25 aprile 1994. Eravamo 1 milione a Milano, sotto la pioggia, con i vestiti inzuppati in un groviglio di ombrelli e striscioni. Carlitos. Abbiamo occupato il liceo per 15 giorni per evitare la soppressione della sede. Io nella scuola, mio padre fuori, in divisa. Anna. 349-238-6666 oppure il profilo Facebook del programma, che è sempre quello, è Voi Siete Qui Radio 24. Se invece volete mandare una mail, è aperta anche la casella email, che è Voi Siete Qui @radio24.it. C'è pure Twitter, ma ci arriviamo dopo. La puntata di oggi, grazie alla storia di Rita, parla di manifestazioni. L'hashtag di oggi è manifestazioni, ma l'hashtag, cioè l'argomento, potrebbe anche essere cocciolone. Ve lo ricordate cocciolone? Come no? Cocciolone, non il gelato. Roberto Scaltriti, quanti anni hai, Roby? Ne hai 28, quindi non ti ricordi cocciolone, neanche Margherita Ina. Ma io e Tiziano Bonini ci ricordiamo le manifestazioni per cocciolone. Non ho mai capito perché si dovesse manifestare per uno che era stato abbattuto con un aereo. Ah no, si manifestava per la liberazione di cocciolone. Giusto, sì. Ed è, quindi era Guerra del Golfo 1990, preciso, secco, era l'inverno del 1990. Quindi con l'hashtag cocciolone oggi sul profilo Twitter, 90-91, adesso, vabbè, se ve lo ricordate, 349-238-6666. Cerchiamo di non dare giudizi di merito, facciamo così, facciamo un patto oggi. Guarda, mi togli un po', mi abbassi un po' la base per piacere, Roby. Facciamo un patto, non facciamo polemica sui significati politici, sociali, culturali delle manifestazioni, se siamo a favore oppure no, se le abbiamo fatte, ci sentiamo cresciuti e non le facciamo più, se non le abbiamo mai fatte le odiamo, se le facciamo ancora e pensiamo sia la roba più figa della terra. Semplicemente oggi si parla della manifestazione che portate nel cuore, per qualunque motivo, ok? 349-238-6666. C'è un profilo Twitter del programma che è Voi Siete Qui R24, e si era deciso che l'hashtag era manifestazione, invece niente, l'hashtag è diventato cocciolone. 349-238, chissà che fine ha fatto cocciolone, aspetta che cerco un attimo al volo, perché sarà ancora in aviazione, no, in Iraq non credo più, no, poi era tornato, no? Era tornato sano e salvo. Maurizio, eccolo qua, Maurizio Cocciolone, vediamo se ci sono delle notizie più recenti. Under 21, il Pescara nella ripresa cala un tris con Cocciolone, non credo che sia lui, forse è il figlio. 349-238-6666, si parla di manifestazioni, si parla di quella manifestazione lì che per qualche motivo vi è rimasta nello stomaco o in testa o nel cuore. 349-238-6666, a Rita sicuramente nel cuore è rimasta questa qui. Nei momenti difficili della mia vita, questo episodio mi ritorna sempre in mente e penso che sia stato il mio giorno più eccitante e più avventuroso. Avevo 25 anni. Avevo ricevuto un invito dal fidanzato del momento, io di Milano, lui di Bassano. Un giorno mi telefona e mi propone di andare con lui alla mega manifestazione che ci sarebbe stata ad Amsterdam contro la disoccupazione. Mi dice che scenderà a Milano perché ci saranno dei treni speciali che partiranno da Stazione Centrale e quindi l'appuntamento è lì, Stazione Centrale di Milano. La cosa bella di questa storia è che quando, nel momento in cui ne parla mio padre, lui, che non ha mai condiviso nessuna delle mie scelte e con cui non sono mai riuscita a parlare ma solo a litigare, con mio grande stupore e dopo aver sentito le mie motivazioni, decide che posso andare. Anche un po' fiero. Stiamo parlando di un uomo che faceva il carrellista all'Alfa Romeo di Arese, che ha combattuto una vita intera in fabbrica, e la cosa che mi diceva spesso era: ricordati, Rita, che il peggior nemico dell'operaio è l'operaio stesso. No, non mi sono più interessata di politica, perché puntualmente non trovavo mai nessuno con cui farlo, e alla fine Enzo era stato l'unico che mi aveva coinvolto in questa cosa. Mi accompagnò perfino in stazione e io mi sentivo raggiante, perché stavo facendo una cosa a cui tenevo molto, con lui al mio fianco. E poi c'era Enzo, da Bassano del Grappa, e avremmo fatto il nostro primo viaggio insieme. Mentre si aspettava vicino ai binari, però, appresi da Enzo che il famoso treno speciale in realtà consisteva nell'occupare fisicamente un treno qualsiasi, che poi avremmo fatto dirottare su Amsterdam, tipo dei pirati. Ci fu un assalto ai posti a sedere. Abbiamo iniziato a correre lungo la banchina e io ero rimasto un po' indietro rispetto agli altri, quando a un certo punto Enzo apre uno sportello e mi fa scudo con il corpo, cercando di tenere a bada la gente che da dietro voleva salire. Lui era bellissimo e forte, ma quel gesto in particolare mi si è impresso a fuoco nel cervello, come se un supereroe fosse uscito dai fumetti e mi fosse venuto a salvare. E mi sentivo come se non potesse succedermi niente di male, ero tranquilla perché avevo di fianco questa persona che mi ha fatto sentire protetta, 100%. Mi sentivo leggera ed entusiasta, stavamo scrivendo la storia. Per tutto il viaggio si parlò di politica, ma anche di musica e di libri. Tutto andò liscio, senza problemi. Ma noi fummo solo un caso fortunato. Quello infatti fu l'unico treno che raggiunse Amsterdam e che ritornò indietro senza grossi casini. In tutti gli altri ci furono incidenti, discussioni, confronti con la polizia o con il personale delle ferrovie. Ecco perché la maggior parte arrivò a destinazione un po' nervosa. La situazione, una volta arrivati ad Amsterdam, non era per niente pacifica. Cariche della polizia, manifestanti che lanciavano oggetti e correvano da tutte le parti. Noi non eravamo preparati a quello, nemmeno il supereroe che avevo al mio fianco. E così abbiamo deciso di ripararci in un coffee shop per tutta la durata della manifestazione, per poi riprendere il treno per tornare a casa poche ore dopo. Let me take you down, 'cause I'm going strawberry field. Nothing is real. Anch'io andavo alle manifestazioni. Come tutti, o come molti, perlomeno. C'era picchetto davanti alla scuola e si andava a protestare. Per Italia all'istruzione, per la Palestina libera, per due tizi che erano stati picchiati da qualche poliziotto, per delle scritte antisemite o per Cocciolone. E ovviamente non si andava a scuola e non si faceva lezione. E addirittura ricordo che alcuni professori venivano con noi. Era un bel periodo quello, il liceo. Il mio modo di manifestare era più o meno andare al bar e mangiare un cucciolone, in quel caso, poi al campetto a giocare una partita di calcio, quindi in piazzetta a vedere se la figlia della tabaccaia era in negozio e poi tornare a casa per pranzo. Un po' stanco, ma con l'energia sufficiente per guardarmi un buon film in videocassetta. Ora, non proprio sempre ho fatto così, però diciamo spesso. La verità è che non ero molto coinvolto nei motivi delle proteste. E vorrei dare la colpa a chi non mi aveva informato bene e a chi non aveva saputo aiutarmi a costruirmi una coscienza civile da ragazzino, ma direi delle balle, perché in realtà ero semplicemente un po' superficiale. Una volta sono andato a Novara per una manifestazione, non mi ricordo esattamente per cosa. Sono certo che ci sono andato perché era il periodo in cui la mia compagna di classe, Cristina, che era bellissima, aveva sempre una chefia in testa, mi aveva detto che le avrebbe fatto piacere se io mi fossi interessato di più al mondo che mi circondava. Siamo arrivati in Piazza Martiri ed era piuttosto freddo, era novembre, era più o meno questo periodo. Ero con altri amici che anche loro avevano deciso che a quella manifestazione bisognava andarci. Ci siamo presi una cioccolata calda in un bar e ci siamo scaldati, mentre fuori si sentiva il suono del megafono, che è bello perché ti fa capire che c'è una protesta, ma ha un unico problema, che non si capiscono mai le parole. È un po' come i cori allo stadio, no? che per i primi anni in cui vai a vedere la partita li canti inventandoti completamente il testo, perché ti vergogni di chiederlo in giro, no? Fai una brutta figura. Quindi è meglio cantare a squarciagola delle vocali che sono più o meno simili a quelle che dicono tutti gli altri e gesticolare con le braccia, tanto ognuno è impegnato nel proprio canto e nessuno si cura di te. Però dopo la cioccolata, quel giorno ci eravamo scaldati e siamo usciti per vedere come andavano le cose, ma improvvisamente non c'era più nessuno. Perché le manifestazioni a Novara non sono come a Milano o a Roma, che dopo un quarto d'ora che la testa è partita la coda si sta appena muovendo. No, no, lì quando si parte si va e in due minuti la piazza ritorna vuota, magari con qualche signora in giro col cane al guinzaglio. E noi non eravamo degli esperti dei percorsi delle manifestazioni e non potevamo certo chiedere informazioni al vigile urbano. Non c'erano cellulari, non avevamo senso dell'orientamento. L'unica cosa che ci poteva aiutare in quella mattina fredda di novembre era la sala giochi che avevamo visto vicino alla stazione all'andata. E allora ci siamo dovuti andare aspettando l'ora in cui tutti poi si sarebbero ripresi l'autobus per tornare a casa, io nella fattispecie a Romentino. Solo che io non ci ho mai creduto tanto alle manifestazioni e un po' faccio fatica anche adesso. Cioè non credo che se 200 ragazzi vanno davanti alla questura di Novara gridando delle cose dal giorno dopo, che so, israeliani e palestinesi smetteranno di lanciarsi i missili. Non so, insomma, non ci vedo veramente una connessione, faccio fatica a immaginarmi un motivo reale per cui queste due cose siano legate. Però devo dire che avrei dovuto farle lo stesso le manifestazioni. Adesso penso di sì, non tanto per avere qualche risultato, ma per crederci di più. O perlomeno per crederci di più adesso. Che essere un po' cinico non mi dà fastidio, è una parte di me, va bene. Però è vero che a volte mi piacerebbe essere più incantato, un po' più ottimista. Vorrei pensare che, ad esempio, il mio singolo voto possa cambiare il mondo, che se raccolgo la carta come si deve, qualche albero non sarà abbattuto. E che se io ho un parere su qualcosa, è anche perché ci sarà qualcuno che lo ascolterà e ne terrà conto. Insomma, non ce la faccio, ma mi piacerebbe. E forse se fossi andato a qualche manifestazione in più, invece, non so, chissà. Abbiamo scoperchiato il vaso di Pandora, vaso di cocciolone in realtà. Ci sono decine di messaggi che spiegano che fine ha fatto. Qualcuno dice che è diventato generale, altri dicono è stato congedato. Bellini invece... Bellini era l'altro, giusto, perché erano due. Cioè, tutti ricordano Cocciolone, giusto, per il nome, mentre Bellini... Però Bellini, comandante di una base dell'aeronautica, mi dicono, vabbè, chi lo sa. Invece, manifestazione, primavera del 94, abolizione della scala mobile. Laura, Lizzano, 15 agosto 1988, manifestazione spontanea in paese contro chi aveva chiamato i carabinieri per via dei gavettoni che avevano imperversato fino ad allora. Simone, 349-238-6666, tutto perché Rita... un bel po', una quindicina d'anni fa, direi, si è trovata su un treno, o meglio, ha dirottato un treno per Amsterdam. Pronto, Rita? Pronto. Buongiorno, come stai? Bene, parte un po' di tosse, che speriamo passi prima o poi. Speriamo. Senti, Rita, dimmi, torniamo un attimo a quegli anni, abbiamo detto 15 o 20? Mi sa, sì, sui 15. Sui 15 anni. Senti, come si dirotta un treno? Praticamente eravamo lì tutti seduti nel mega androne della centrale. Per tutti intendiamo di 100-200. Ok. A un certo punto si è sentito l'altoparlante che diceva tipo il treno per Amsterdam al binario 3. Quindi tu immaginati gente che si alza di botto e inizia a correre all'impazzata verso questo fronte. È così che ho capito che si occupava in questo modo. Cioè, ma quindi, scusami, però c'era un accordo con le ferrovie, nel senso che c'era un treno? Sì, nel senso che noi eravamo lì seduti ad aspettare questa cosa, ma io ero convinta che fosse una cosa per bene. In realtà dopo ho saputo che si stava occupando. Cioè che mi spiace, la differenza tra una cosa per bene e invece si stava occupando un treno. Senti, invece quando siete arrivati ad Amsterdam non era, diciamo, allegra la situazione? No, mica tanto. Io poi tra l'altro felice, cioè, nel senso io così in un altro mondo, un altro pianeta, in giro a quell'età con il mio ragazzo in un'altra città, E finché a un certo punto mi sono sentita presa da Enzo e ci siamo praticamente tolti da lì, perché la situazione era abbastanza pericolosa. E quanto siete rimasti nel coffee shop però? O ormai avete una memoria vaga di quelle ore? Ma dico che stiamo parlando di ore, cioè ci abbiamo messo 16 ore ad arrivare, 3 ore, e poi siamo ripartiti immediatamente. È stata proprio una boccata d'aria ad Amsterdam. È un ritorno. Senti, tu adesso sei, dicevi prima, sales assistant. Come si diventa da, diciamo, dirottatore di treni per Amsterdam a sales assistant? Qual è la strada? Cosa c'è in mezzo? Hai lavorato? Sì, la strada è un diploma di maturità professionale, 5 anni, e poi di contabilità. E poi niente, si inizia a fare la gavetta. Si inizia a lavorare, banalmente. Subito. Senti, invece, Rita, hai fatto più altre manifestazioni? Hai avuto attività politica di qualche tipo? Allora, a me sarebbe piaciuto tantissimo, perché dentro c'è questa cosa, appunto, con mio padre era l'unica cosa che ci teneva uniti, perché per il resto eravamo lontani mille miglia, però l'unica cosa su cui eravamo d'accordo era appunto la politica e il fatto comunque di essere di sinistra, però non c'è stato mai modo, non sono mai riuscita a farlo. Tutte le amiche con cui si faceva manifestazione, alla fine finivamo come te ad andare in giro a bigiare, e io invece volevo andarci. Ma zero, da sola non me la sono sentita. No. Senti, invece adesso vabbè, sei a casa dal lavoro perché sei malata in questo momento, giusto? Non perché... No, hai preso le ferie? Ah, sei al lavoro in questo momento? Sono a lavoro, praticamente. Ok. Sono già stata a casa e quindi il dottore mi ha detto rientri. Ok, ma dove sei? Sei in uno stanzino? Sei nel sottoscala? Allora, esattamente ho chiesto la macchina alla mia collega e quindi sono dentro la sua macchina nel piano parcheggio. Ti ringrazio molto, Rita, per la chiacchiera e la storia. Buona fortuna. Grazie. Ciao. Grazie di tutto. Ciao. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Test nucleare di Mururoa con Greenpeace, 1992. Mai più partecipato a una manifestazione così. È bellissima la foto che ci ha mandato Rita e che trovate sulla pagina di Voi Siete Qui, sul sito ovviamente di Radio 24. È una foto che appartiene molto alla storia della mia generazione, perché adesso la gente che ha tra i 35 e i 40 anni, quando va a casa e sfoglia, se mai succede di andare a casa e di sfogliare, io questo fine settimana faccio un salto a casa e lo faccio dai miei, di sfogliare gli album di famiglia, queste sono le foto che noi, io, Tiziano Bonini e quelli di questa età, ci troviamo davanti. Anni 80 pieni, proprio secchi, forse fine anni 70. Un campo, un prato in una zona semi-industriale che sta appena nascendo, no? Perché c'è il boom e quindi ci sono fabbriche che nascono ovunque. Il proprio papà, con una faccia che ci sembrava anzianissima e adesso probabilmente è più giovane di noi, di come siamo noi adesso, il papà di Rita, quindi con una bella barba, un giaccone pesante che le tiene una mano sulla spalla, lei ha su un cappottino commovente e ha una graziella di colore verde. Manifestazione, sostantivo femminile. Quanto costituisce la prova diretta, visibile o tangibile di una presenza determinata o di un fenomeno di ordine spirituale o fisico. Dimostrazione di atteggiamenti e sentimenti condivisi da una collettività, attuata sfilando in corteo o riunendosi in luogo pubblico. Spettacolo sportivo o iniziativa culturale di interesse generale. Etimo, dal latino tardo, manifestatio. Ma perché io non so leggere il latino? Etimo, dal latino tardo, manifestatio, manifestationis, derivato di manifestare, data secolo XVI. L'hashtag Cocciolone sta imperversando su Twitter. Io mi sono appassionato troppo alla storia di Cocciolone. Arrivano messaggi che dicono un po' tutto e il contrario di tutto. Gaetano da Rimini scrive: ero brigadiere carabinieri comandante polizia militare ad Al Dafra, dove ho conosciuto Cocciolone. Invece il generale Bellini, che evidentemente appunto è diventato generale, vive negli Stati Uniti, lavora per la NATO, mi dicono. Ha scritto un libro, Notti in Arabia, che racconta la vicenda accaduta a loro. Saluti Franco. E poi ancora, Cocciolone è stato congedato alla Nautica Militare, attualmente vive in Brasile. Ciao Matteo, posso scaricare e leggere il vostro ebook sebbene non possiedo un tablet? Certo che puoi, l'ebook è ancora online, se vai sulla pagina di Voi Siete Qui, quella dove c'è la foto e dove trovi tutto il resto di Radio 24, ci trovi in basso a destra proprio il logo, c'è una copertina rossa con l'Italia stilizzata, ci clicchi sopra, quello è un PDF e in quanto PDF te lo puoi leggere sul tuo computer o te lo puoi leggere sul tablet o sull'iPhone o lo smartphone, come PDF o come ebook. 349-238-6666, si parla di manifestazioni. Mi ricordo la manifestazione del 66 a Firenze, migliaia di studenti come me a lavorare nel fango uno accanto all'altro, senza colori politici. Mario da Vicenza, qui immagino si parli dell'inondazione di Firenze. Roma 2000, giornata mondiale della gioventù, 2 milioni di ragazzi che durante la messa pregano in silenzio, tutte insieme, da brivido. Ancora oggi, se ci penso, mi torna la voglia di sperare in un futuro più bello. Elena, nel borgo dove andavamo in vacanza, queste sono le mie preferite, nel borgo dove andavamo in vacanza ho partecipato ad un corteo di protesta contro i grandi, che sono gli adulti, che volevano impedirci di giocare al pallone. Ruggero da Bari. Perché poi le grandi manifestazioni hanno a che fare con le grandi idee, con i grandi desideri. Non vogliamo più aule in classe o vogliamo la mensa migliore. È contro i grandi che si manifesta. Sempre e comunque, che si abbiano 12 anni o che se ne abbiano 40. 15 agosto 2009, corteo per la libertà dei Paesi Baschi, San Sebastian. Oltre 2 ore di guardia e ladri tra i vicoli. Alla prima carica della polizia però avevo perso tutte e due le scarpe. Ciccio. E poi ringrazio Marco che si prende a cuore la mia parte nichilista e mi dice e mi ricorda che una frase di Schweitzer, Albert Schweitzer, che dice: quello che tu puoi fare è una goccia nell'oceano, ma è ciò che dà significato alla tua vita. Ti ringrazio Marco, ci rifletto un po' su. E riflettendoci su, vi leggo questo messaggio che è arrivato oggi, è arrivato in privato, ho chiesto il permesso e quindi posso leggerlo, magari lo pubblico anche sul profilo Facebook, quindi lo leggete tutti. Qui vi chiedo ulteriormente di lasciare a casa la vostra e la nostra ipocrisia e le nostre idee preconcette. Questa è la storia che parla di una manifestazione che ci è molto attaccata, perché è una manifestazione della TAV, che è contro la TAV, che probabilmente è ancora in corso, non so, ci sono ancora dei presidi. Tant'è, è una storia che parla di come quello che è pubblico è anche privato e quello che è privato è anche pubblico. La mia prima manifestazione vera e propria è stata nel 1999, guerra in Kosovo, base militare di Gedi. Figurati quante ne sono seguite fino ad oggi, tra le piccole cittadine, le grandi, nazionali e qualcuna anche fuori dall'Italia. Ho imparato a sentirmi navigata, a capire dove restare, cosa fare, come muovermi, cosa stava per succedere in ogni momento. Con queste certezze sono partita per la Val di Susa il 3 luglio del 2011. Come posso descriverti quella manifestazione? Ho i brividi se ci ripenso, brividi di emozione. Non mi dimenticherò mai il suono dei legni battuti sul guardrail da migliaia di persone, in un ritmo costante, incessante, che è andato avanti per ore, quando i lacrimogeni fioccavano da ogni parte. Un suono di sostegno a chi, poco più avanti, cercava in tutti i modi di riprendersi un cantiere aperto con la forza, militarizzato, che la gente non vuole. Io, quel giorno, ho cercato di fare quello che potevo. Acqua e Malox. Lo passavo a chi arrivava da più avanti. Avevo paura, forse. Eppure continuavo a sentire che il mio posto era lì. Fino a quando, dall'alto, un lacrimogeno mi è arrivato ai piedi. Mi sono girata e ho fatto quello che non si dovrebbe mai fare. Ho aperto i polmoni per iniziare a correre. Ero coperta, eppure contro quei lacrimogeni poteva servire solo la maschera antigas, quella che in realtà molte persone, uomini e donne, molti anziani, indossavano. Ho il ricordo confuso di qualche minuto. Se ci penso mi rivedo ondeggiare con gli occhi chiusi perché non riuscivo più ad aprirli e con il respiro strozzato nella gola che non usciva. Una sensazione di confusione che mai avevo provato e spero di non provare mai più. Poi, non so da dove, è arrivata una mano, che mi ha presa e mi ha tirata avanti, veloce. Mi ha messa in disparte e io ho vomitato e cercato di riaprire gli occhi. Quella mano era di Marco, il mio ragazzo, che era con me ma non vedevo da un bel po', perché aveva scelto di stare nelle file più avanti. Non so come, ma è arrivato proprio in quel momento. E in quel momento ho deciso che l'avrei sposato. Giada. Vancimuglio 98, guerra del latte, blocco dell'autostrada, la mia unica manifestazione fatta da gente che non era mai scesa in strada per nessun motivo. E poi ancora nel 2002 contro la mia ex banca, tanti PF in giacca e cravatta, vuol dire PF? Boh, tanti impiegati forse, in giacca e cravatta con la celere incredula, blocco della Colombo a Roma, domenico. E poi qualcuno che mi chiede come si riascolta la trasmissione, vai sul sito nella sezione podcast, ci entri e ti scarichi il programma. Grazie a Tiziano Bonini, a Roberto Scaltritti, a Margherita Ina e a Stefano D'Andrea. La storia di oggi era la storia di Rita e anche lei è un punto rosso su una mappa. Ciao, il mio nome è Roberto, sono della provincia di Biella. Il racconto di lunedì è il mio e parlerà dell'istupidimento d'amore. Questa è la mia storia e io sono qui.